Il piacere sacro della studiosa austriaca Ariane Eisler, autrice del saggio Cult, il calice e la spada, da noi proposto qualche tempo fa, è un libro uscito nel 1996, molto forte e diretto, che racconta verità scomode sullo snaturamento di uno degli istinti più radicati degli esseri viventi a scopi manipolatori e dominatori, e sulla violenza inferta attraverso l'abuso sessuale agli esseri fisicamente più deboli come donne, bambine e bambini. Il titolo dell'edizione italiana, uscita nel 2012, quindi 16 anni dopo quella originale, non è la traduzione di quella inglese. Il titolo inglese, tradotto in italiano, sarebbe infatti Il sacro piacere, sesso, mito e politica del corpo, nuovi percorsi verso il potere e l'amore. In italiano il titolo è diventato Il piacere è sacro, il mito del sesso come purificazione, il che a nostro avviso cambia in parte l'aspettativa di chi legge. La scuola delle donne non poteva non prendere in considerazione lo studio di questa voluminosa opera che scandaglia la storia antica e moderna, portando alla luce come sia stata usata a partire dalla fine del Neolitico la sessualità a scopi economici e politici. Di Ariane Eisler abbiamo già parlato, presentando il suo masterpiece, Il calice e la spada, e pertanto non la ripresenteremo qua. Ma per usare le parole esatte che lei ha usato, vi offriremo la traduzione letterale della presentazione che lei stessa ha pubblicato nel suo sito ufficiale all'uscita del libro nel maggio del 1996, e lasceremo in descrizione il link affinché chi è interessata o interessato possa approfondire personalmente. I temi trattati sono scottanti e scomodi, ma la storia è quello che è e ignorarla non giova. Proponiamo che chi si senta eventualmente disturbata o disturbato dall'ascolto del libro di Ariane, letto per noi da Giorgia, semplicemente interrompa l'ascolto. Come ogni scuola degna di tale nome, anche la nostra offre un ventaglio a 360 gradi di conoscenza, all'interno del quale ciascuna e ciascuno possa scegliere secondo le sue necessità e preferenze. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi Il piacere è sacro. Frassinelli Editore 2012, traduzione di Maura Pizzorno, legge Giorgia Figlia di Lidia. Ora vi lascio all'ascolto della presentazione, letta da me, ma scritta dalla stessa Ariane, come sempre, da Devana, figlia di Liliana. Buon ascolto. Il sacro piacere esplora la storia passata, presente e il potenziale futuro della sessualità. Guarda la sessualità e la sacralità nel più ampio contesto della nostra evoluzione culturale e biologica. Demistifica molto nella nostra storia sessuale, che è stata confusa e resa incomprensibile, gettando nuova luce su questioni ancora generalmente mantenute sotto il linguaggio del dogma religioso o del gergo scientifico. Dimostra che la lotta per il nostro futuro non è solo politica, nel senso convenzionale del termine, ma ruota attorno alle questioni fondamentali del dolore e del piacere. Soprattutto ci aiuta a capire meglio e quindi a liberarci dalle agonie che soffriamo cronicamente nella nostra ricerca di modi di vivere e di amare più sani e soddisfacenti. Il nostro desiderio umano più potente è la connessione con tutto ciò che dà piacere e significato alle nostre vite. Eppure la violenza sessuale è all'ordine del giorno e la guerra dei sessi continua a perpetuare incomprensioni e dolore. Perché questa lotta persiste? Cosa possiamo fare per rivendicare il nostro potere innato di dare un aspetto piacevole alle nostre vite? Sacred Pleasure, questo libro rivoluzionario, in un provocatorio tour sulle politiche sessuali che modellano il nostro tempo, mette in luce gran parte della confusione e del tumulto che ci circonda, affrontando i miti sessuali che hanno corrotto le relazioni uomo-donna nel corso dei millenni. In una vasta tela ci porta dalle prime origini del sesso su questo pianeta alla nostra epoca postmoderna, gettando nuova luce non solo sulla sessualità, ma sulla spiritualità, l'amore, il potere e le due leve più basilari per la motivazione umana, il piacere e il dolore. Affermando audacemente che la guerra tra i sessi non è inevitabile, Ariane Eisler offre una visione appassionata di un futuro in cui sesso e spiritualità sono di nuovo intrecciate come nel passato remoto e uomini e donne si affrontano come partner alla pari. L'emozionante epopea del libro espone le verità sul sesso che sono state spazzate via dal dogma religioso e dal gergo scientifico, mostrando cosa è andato storto, rivela una storia completamente nuova di relazioni intime e di come queste influenzino e a loro volta siano influenzate da tutte le nostre relazioni, sia nella sfera pubblica che privata. Traccia il nostro percorso dalla preistoria, quando il sesso era un mistero celebrato, legato a tutto ciò che è sacro, attraverso l'invasione dell'Europa da parte dei guerrieri caucasici, quando il sesso divenne un mezzo di dominio, alle prime civiltà occidentali, il regno delle chiese patriarcali e nel nostro tempo di guerre culturali, quando donne e uomini in tutto il mondo cercano nuovi modi di vivere e amare. Lungo il percorso esamina l'economia e la politica delle relazioni intime e sessuali, la moderna rivoluzione della coscienza, il fallimento della moralità tradizionale e la nuova etica emergente. Al fine di accelerare quello che lei chiama il pain to pleasure shift, ovvero il salto dal dolore al piacere, Rianne Eisler delinea un progetto per il futuro della sessualità, della spiritualità e di una società in cui il piacere, non il dolore, è il tema centrale delle nostre immagini sacre e secolari e delle nostre vite.